Quando ho visto il posto di blocco, ho fatto quello che fanno tutti quando vedono un posto di blocco e non vogliono farsi fermare da un posto di blocco. Il trucco, sapete qual è, no? Spiego. È quello di guardarli negli occhi, ma con un'estrema serenità interiore, come chiedendo: ma cosa è successo? Infatti io m'hanno fermato e m'han detto: Ramo documento, casi nuovo dall'amiento, documento tu me le harà. Song, song, radico, sto voglio ricere, sto voglio canta. Ehi, hey, è due ore che chiedi sto documento. Fai bene a non fidarti se ti dico mi piace il suo documento. I don't understand, non intendo. Rimaniamo freddi come quello di Nuendo. Dammelo tu sto documento, sì. Prima che parta un colpo accidentale prendo lì. Così se sopravvivo giuro che poi vengo lì. Dopo aver firmato il documento di Don King. Fatti draghi coi cani rasati tipo Krillin. State sempre a caricare come film in streaming. Mi volete registrare in una scheda CD. Uscirete solo diventando sound engineer. Oh shit, shit, è arrivata la police. Dice tagliati i capelli come ha fatto Ludacris. Conto fino a 10, 20, 30, 41 bis. Temo l'occhio nero come il chitarrista The Kiss. And now, 99 Pussy. Ramo documento, casi nuovo dall'amiento. Documento tu me le harà. Song, song, radico. Sto voglio ricere, sto voglio cantare. Padre che ne fila all'ufficio comunale, giù in nonia che ho pulito si è scassato terminale. Era nuova che bellezza, ma voleva un cornicia, ma mo non passa giorno senza che la giaca c'ha. E davvero fuori a casa Jonathan, documenti! Sono guardi e le capite, amo in un posamento. Prefetta anziano botta, si asciuga documenti. Si tanchiava caffettina, sai come fai contento. Mo passa questa storia, ma sono scassato cazzo. Rondo rondo documento, vinto su ne che scevazze. Rondo rondo rondo rondo rondo rondo voglierà. Rondo rondo rondo rondo rondo voglierà. Cento documenti a casa, piaccio dall'amiento. Documenti non voglierà. Me ne passa po' cazzo, radico. Sto voglio ricere, sto voglio canta. Cento documenti a casa, piaccio dall'amiento. Documenti non voglierà. Me ne passa po' cazzo, radico. Sto voglio ricere, sto voglio canta. Andano a fottere a galera. Nemo come a mettere nome. Iamo in non è maniera. Momo chiava un faccio cazzo. Su marone tesserine. Senta pozzo manco più. Cago cazzo ogni mattina. Allora a mia moglie se cerco documento. Che la muovo peno. Cazzo i su più contenta. A mio figlio se cerco documento. Ma guardare in da gonnola e non capisce niente. Pure sulla se cerco documento. Ma cago sotto il sessio. Cazzo immediatamente. Pure sulla se cerco documento. Chiamo terminale ma controllo i precedenti. Cento documento a casa, piaccio dall'amiento. Documento non voglierà. Me ne passa po' cazzo, radico. Sto voglio ricere, sto